La rosa purpurea di Franco D'Assisi. Eccoci insieme per parlare di cinema qui alla Prosa Purpurea, Radio 24, l'ora di cinema nel nostro weekend. Scollinato il Ferragosto, cominciamo ad avvicinarci alle stagioni più calde, fra virgolette, però non quelle solo metaforiche e meteorologiche, del settembre cinematografico. Comincia a rifiorire qualcosa, anche se in verità davvero poca roba, almeno per il momento, per quanto concerne le novità al cinema. Due i nuovi film che arrivano in sala, una sorta di post peplum come Hercules il guerriero, e un film da cui invece ci si aspetta moltissimo il botteghino come Dragon Trainer 2. Sentiamo la clip. Coraggio, amico! C'è un mondo pieno zeppo di draghi là fuori. Incredibile. Allora che dici? Come la chiamiamo? Asciala che crude, d'accordo. Dovrei conoscerti? No, ma una madre non dimentica mai. Ogni drago ha i suoi segreti e io te li mostrerò tutti. Quella è tua madre. Ora capisci da chi ho preso questo carattere. Gli piace. E allora, questa la clip di Dragon Trainer 2. Dragon Trainer è stato uno dei film, come dire, più sorprendenti anche nella sua, nei suoi contenuti artistici, nei suoi contenuti produttivi e anche nel risultato che ha avuto. Il primo nel botteghino, questo secondo sta praticamente, come dire, seguendo le stesse gesta. Negli Stati Uniti ha già incassato più di 160 milioni di dollari, è un film che arriva già con un immaginario molto consolidato e quindi con un pubblico praticamente certo, e dobbiamo dire che l'operazione non delude. Insomma, i sequel sono sempre un po' da prendere con le molle, da vedere se non si sia esaurita la fiamma dell'originalità magari della storia principale. Invece in questo caso non è così. La storia è sempre ambientata nel villaggio di Berk, dove draghi e umani vivono in totale armonia, ma questa armonia sembra, come dire, da una parte essere un po' malvista da un gruppo di cacciatori di draghi, dall'altra addirittura da un gruppo di draghi stessi. Come è capitato qualche settimana fa, abbiamo parlato di Apes Revolution, del nuovo capitolo del Pianeta delle Scimmie, e anche lì avevamo detto di quanto ormai il cinema stia raccontando le diversità, ma come anche in seno a ogni ceppo, in questo caso umani e draghi, lì scimmie e umani, ci sia il bene e ci sia il male, quindi con una visione meno politically correct di quello che era una volta. Io chiedo conferma o meno di questa tesi al nostro Boris Sollazzo, che è in collegamento con noi. Ciao Boris. Sì, sono assolutamente d'accordo. Intanto buongiorno a tutti. Ciao Franco. Sono assolutamente d'accordo anche sulla minore potenza di questo film rispetto al passato, nel senso che tecnicamente è sopraffino come lo era il primo. I movimenti dei draghi e in generale tutto ciò che riguarda la costruzione anche della scenografia, dell'animazione, è qualcosa di incredibile. I voli, il tentativo insomma di rendere totalmente omogeneo il mondo dei draghi e il mondo degli uomini continua ad essere straordinario. È meno forte, meno potente l'aspetto narrativo, emotivo, l'intrattenimento che si unisce al divertimento e all'ingenuità di un racconto che qui inevitabilmente sembra molto più costruito, perché il personaggio matura, il personaggio di questo principe che cerca la sua dimensione, ha salvato la sua civiltà da una guerra con i draghi facendosi gli amici, è un mediatore naturale, figlio di un guerriero che vorrebbe, adesso lo stima, prima lo considerava un pappamollo, adesso lo stima e vorrebbe che ereditasse il regno, ma lui è le stimmate dell'esploratore, della curiosità, la volontà appunto di cercare sempre un punto di incontro con gli altri. Tutte cose belle, però tutte cose secondo me troppo costruite, che rendono Dragon Trainer molto più meccanico, molto più macchinoso rispetto al passato. È sicuramente un film divertente, un film che fa il suo, che mantiene quello che promette, però non è quel capolavoro che era il primo. Non voglio esagerare nell'incensare il primo, ma il primo era quel classico film perfetto che non ha sbavature, che riesce ad accarezzare il cuore dei bambini, come a far riflettere i più adulti, e questo in Dragon Trainer 2 non c'è. In Dragon Trainer 2 sembra chiaramente quello che è, cioè un sequel che cerca di mettere tutti i puntini su lei senza la fluidità del prima. In ogni caso però un buon film, adatto paradossalmente soprattutto a chi non ha visto il primo, anche se alcune informazioni del primo sono necessarie, come il rapporto con la madre, che qui in qualche modo si sviluppa, ma non voglio dire come. Un film interessante, ma niente a che vedere con il primo capitolo. Solo io ho il controllo dei draghi. Drago Bloodfist è un pazzo. Lo faccio diventare blu e gli faccio perdere la vista se si azzarda a prendere il mio drago. Papà, c'è qualcosa che dovresti sapere. Oh, mamma. So che cosa stai per dire. Sei bella come il giorno in cui ti ho perduta. E da Dragon Trainer 2 passiamo all'altro film nuovo di questo weekend. Abbiamo detto un post-peplum, Hercules, la leggenda a inizio, un film che ci sposta, almeno nelle ambizioni, dalle parti di film come 300 o come Il Gladiatore, che però era tutt'altra roba. Ascoltiamo la clip. Gli dei hanno ucciso la tua famiglia e scatenato l'inferno in terra. Sono i discendenti di Ade. Nessun comune mortale può ucciderli. La gente ha bisogno di te. Non sono un eroe. Un uomo con una motivazione è più forte di un dio. È qui che moriremo. Non è ancora il mio momento. Ma non sono sicuro non sia il tuo. Combatteremo per te. E moriremo per te. Devi credere in te. Ora dimmi, tu chi sei? Io sono Hercules! E allora, avete sentito, insomma, non è che proprio ci sia da alzarsi in piedi e applaudire. Alcuni dati sul film, intanto il protagonista Dwayne The Rock Johnson è forse una delle cose più interessanti andare a vedere, questo attore che ha una stazza fisica clamorosa, ma insomma è stato impegnato spesso anche in commedie proprio in contrasto con la sua fisicità, finalmente fare Ercole, che se non lo fa lui, insomma. Poi ricordare che forse è un'altra cosa interessante lo spostamento della storia a dopo le fatidiche 12 prove di Ercole, e quindi quando Ercole passa dalla forza oscura, insomma, ecco, diciamo che si mette un po' a livello di un Ercole sofferto e fuori dalla voglia di essere un divo della sua epoca, come un po' è stato dipinto in tante rivisitazioni, non ultima per esempio quella disneyana del cartoon. Però Boris, parafrasando Hercules, il titolo, la leggenda a inizio, la leggenda a inizio metto un punto di domanda o invece già alla fine? Beh, la leggenda mi sembra già alla fine, francamente. Dwayne Johnson è molto simpatico, ha anche un'intelligenza umana discreta, ma non si può dire che in lui ci sia del talento recitativo incredibile, anche se quando affronta dei personaggi che gli vengono cuciti addosso con una certa ironia, lui riesce a dimostrare, insomma, di poter stare davanti a una macchina da presa. Nel caso di Hercules è difficile dargli un taglio ironico, soprattutto se il make-up non lo aiuta e lo fa essere completamente lontano dalla figura che la mitologia ha consegnato all'immaginario di questo eroe. Insomma, la sua fisicità davvero prorompente, eccessiva, diventa già una sfida alla credulità, che di fronte a una storia come Hercules già è messa a dura prova. C'è tutto l'universo di un regista come Brett Ratner, un regista che ha la capacità di intrattenere bene, ma anche la capacità di semplificare quello che già è fin troppo semplice, come appunto un mito. Sembra un film troppo antico per il target che cerca, insomma, che è un target adolescenziale, un target a cui piace un certo tipo di peplum moderno, e comunque troppo nuovo per l'immaginario a cui si richiama. Francamente poi i dialoghi sono veramente improbabili, assolutamente improbabili, ed è vero che la mitologia è un insieme di stereotipi ben messi insieme, ma qui esageriamo davvero. Non importa quanto veloce tu corra, non importa dove tu vada, la bestia ti seguirà. Non si sfugge al destino. Hercules. Il tuo nome è un grido di battaglia. Conosciamo la tua leggenda. Sei il figlio di Zeus. Voglio solo essere un marito e un padre. Bentornato, amore. Non puoi rinnegare chi tu sei. Gli dèi te la faranno pagare. E allora, una stagione che sta scollinando verso settembre, come dicevamo, sta cominciando a vedere, neanche da tanto lontano, la Mostra del Cinema di Venezia, che si apre ormai fra una decina di giorni, e noi vogliamo cominciare proprio da questa puntata, un avvicinamento verso Venezia 2014. Questa settimana lo facciamo con le due sezioni collaterali più importanti, più prestigiose, le Giornate degli Autori e la Settimana della Critica. Giornate degli Autori, che come sempre mettono insieme e fanno incontrare, fanno proprio da trade union fra il cinema più innovativo e forme di narrazione più tradizionali, fra il cinema documentario e il cinema di finzione, fra registi che sono pluripremiati e registi totalmente nuovi. Insomma, è un bel momento di incontro all'interno della Mostra del Cinema di Venezia, anzi collateralmente, perché le Giornate degli Autori sono chiaramente indipendenti. E allora cominciamo ad entrarci dentro il clima delle giornate con il nostro ospite telefonico, che è Giorgio Cosetti, anima di queste Giornate degli Autori, che saluto. Ciao Giorgio e ben ritrovato alla Rosa Purpurea. Eccoci. Punto d'incontro, ti piace come definizione? Punto d'incontro mi piace se si precisa che il punto d'incontro è anche davanti a un bicchiere di prosecco, che è anche a chiacchierare di notte stando insieme dopo una proiezione. Insomma, che non siamo la sezione pallosa della Mostra di Venezia. Assolutamente, assolutamente. Ci si diverte sempre lì alle giornate. Allora, quest'anno avete messo insieme un programma di grande livello. Insomma, nomi come Kinky Duke o Laurent Canté, come dire, sono nomi da concorso ufficiale. Ecco, è stato uno dei grandi dibattiti di questi giorni. Alcuni di questi film sono stati confermati proprio sul filo di lana prima dell'annuncio pubblico. Mettiamola così, noi non abbiamo nessuna voglia di fare la collezione delle figurine Panini dei nomi importanti. Cerchiamo di vedere un cinema che ci assomigli, perché ormai dopo 10 anni le Giornate degli Autori hanno una loro immagine, un loro profilo, c'è gente che giustamente ci telefona dicendo: secondo noi questo è un film da giornate, addirittura a prescindere dal concorso. Quindi abbiamo scelto dei film che ci sembrava, anche quando i nomi erano molto famosi, si adattassero a questa idea, cioè fossero per esempio dei film in cui dei registi famosi però fanno qualche cosa che normalmente non fanno, si mettono in gioco, rischiano un po' di più. Kinky Duke ha fatto il film in un tempo brevissimo con un budget molto basso, Laurent Canté è andato in realtà con la sua cinepresa su una terrazza di Cuba a riprendere un lungo dialogo, conversazione fra 5 persone, sembra quasi la versione pauperistica della terrazza di Ettore Scola. È quindi un cinema un po' diverso, noi crediamo abbastanza appassionante, altre volte ho usato volentieri l'espressione divertente, quest'anno purtroppo c'è poco da ridere, le commedie non sono tante e la più divertente di tutte è una commedia ebraica, Yiddish, che viene da Israele, con l'umorismo Yiddish che permette di ridere anche sul tema dell'eutanasia, che insomma non è esattamente un panino leggero. E però sono dei film, io credo, molto appassionanti. Mi auguro che il pubblico la pensi come noi. La Rosa Purpurea. Seconda parte della Rosa Purpurea, siamo ancora qui con la Mostra del Cinema di Venezia che incombe e con le sezioni collaterali da raccontare. Abbiamo cominciato il racconto delle Giornate degli Autori, è con noi ancora Giorgio Cosetti che ne è l'organizzatore. Giorgio, dicevamo, parliamo un po' di cinema italiano perché ci sono due film molto interessanti anche se diversi tra loro, uno che mette insieme un cast che forse è il meglio della propria generazione, fra Alessandro Gassman, Barbara Bobulova, e l'altro invece che ripropone un film di Felice Farina, che ripropone un personaggio forse sempre troppo sottovalutato comunque nel cinema italiano, che comunque non ha avuto l'eco che avrebbe meritato, come Roberto Citran. Insieme a Citroen c'è Francesco Pannofino, ma sono molto d'accordo con te. Ognuno poi vede il suo vino come il più buono del mondo, ma io non ho mai visto Citroen così straordinariamente affine a una realtà come quella che mette in scena, così come non ho mai visto Alessandro Gassman recitare così. E quindi, insomma, buone speranze anche dal cinema italiano. Abbiamo provato a mettere insieme due idee di cinema molto diverse, non a caso uno degli eventi speciali è una terza idea di cinema, che è quella di due videoartisti come i Masbedo, per dar proprio conto di come siamo in mezzo a un cinema che ha una straordinaria vitalità di modi e di linguaggi, più classico ma su un tema fortissimo I nostri ragazzi, davvero spericolato e sperimentale, ma molto emozionante dal punto di vista emotivo, Patria di Felice Farina, di visualità a mio parere folgorante e di ambizioni diverse, sono storie di solitudine e di assenza femminile quelle di Velac. Ecco, io so che però il film che vi farà tenere la gente fuori dalle sale sarà Alex Della Iglesia con il suo docufilm su Lionel Messi, perché lì si incontra tutto. E chiaramente, tra l'altro, vi è più quest'anno con quello che è stato l'anno del mondiale, con Messi che perde la finale, con Messi che sta male in campo ogni tre partite. Insomma, il personaggio Messi è diventato anche un po' il mistero Messi, se vogliamo. E quando parliamo di mistero, vedere un nome come Alex Della Iglesia a fare da regia non è male. Non hai torto, noi abbiamo scelto questo film, Silvano Zu ed io, perché ci piaceva troppo proprio il fatto che fosse un film di Alex Della Iglesia, fosse il film su uno straordinario vincente perdente, forse un po' anche un simbolo dell'Argentina di oggi. Il film l'abbiamo messo proprio in chiusura perché è davvero un evento, ma non solo perché attirerà tanta gente, ma perché è un po' fuori quadro, nel senso che è stato presentato ha avuto una proiezione durante i mondiali di calcio in Brasile, e quindi non era proprio eleggibile a tutti i punti di vista, ma è un film di una fortissima tensione umana e di grande divertimento. Ci sono delle cose che non si sono mai viste al cinema, neanche in televisione, soprattutto del piccolo Lionel Messi. E ricordiamo tra l'altro la sceneggiatura e la voce da narratore di un campione del mondo come Jorge Valdano, per i calciofili insomma anche questo conta. Ricordatevi che non è un documentario, è proprio un film. Sì, è un film che tra l'altro mischia materiale d'archivio con ricostruzioni con attori, con finzione. Quindi, insomma... E con una spettacolare scena a cui sono convenuti da Johan Cruyff a Sabella, da Menotti a Macerano, da Pedro a Piquet, ma anche il medico e anche i familiari di Lionel Messi. Il momento della cena è veramente il perno del film. Tutto da vedere. Io ricordo le date delle giornate, dal 27 agosto al 6 settembre, quindi se avete da fare qualcosa intorno al 6 settembre segnatevi questo possibile appuntamento. Ti ringrazio tanto Giorgio, perché poi tutto il resto lo diranno le giornate lì a Venezia, ma insomma non ci resta che dare appuntamento lì, perché sarà quello il momento in cui la bellezza delle giornate degli autori 2014 si svelerà. Siamo molto orgogliosi, vi aspettiamo. E allora Giorgio Cosetti, giornate degli autori, fra poco Francesco De Pace, settimana della critica, in mezzo il gioco, prima traccia del nostro film misterioso. Che cosa vuoi? Pensavi davvero di poterti proteggere da me in quella? Non è una protezione da te. La Rosa Purpurea @radio24.it, se avete già indovinato di che film si tratta, provate a vincere il Blu-ray di questo film che sveleremo la prossima settimana, ma fra poco vi daremo una seconda opportunità. E allora parliamo anche della settimana della critica. Festival di Venezia, dicevamo che si sta avvicinando, sezioni collaterali importanti, prestigiose come appunto le giornate degli autori, ma come la settimana della critica che sempre nelle stesse date, 27 agosto 6 settembre, farà vedere il meglio del nuovo cinema, dei nuovi sguardi sul mezzo cinematografico, con la capacità di andare a pescare con tante anche prime mondiali, tra l'altro, di andare a pescare innescare un po' che cosa di nuovo sta fermentando qua e là nel mondo. Un concorso che vede appunto 7 film e poi un film d'apertura e un film di chiusura che sono fuori concorso. Per parlarne con noi Francesco De Pace, delegato del Sindacato Nazionale Critici Cinematografici, proprio organizzatore della Settimana della Critica. Ciao Francesco, ben ritrovato alla Rosa Purpurea. Grazie, ciao a tutti voi. Allora, è stato un anno particolare quello della Mostra del Cinema di Venezia l'anno scorso in generale, perché la vittoria di Sacro Gra ha un po' movimentato, diciamo, un po' anche il dibattito sul documentario, eccetera. Ci troviamo un anno dopo, voi certo non eravate nuovi, come dire, al documentario, però anche quest'anno c'è una certa capacità di recepire questo formato, questo mezzo, questo modo cinematografico particolare. Sì, guarda, la nostra scelta di proporre un documentario in concorso quest'anno è per la verità nuova, nel senso che noi ci eravamo avvicinati al documentario in passato, ma sempre tenendolo fuori concorso, ma non perché facessimo una distinzione tra finzione e documentario, che oramai stava cominciando a venir meno, diciamo, nel dibattito cinematografico, insomma. In realtà non ci eravamo mai imbattuti in un documentario d'esordio che avesse una forza cinematografica, uno stile così nettamente filmico, insomma, da farlo salire al di sopra delle nostre scelte, quelle riguardanti, diciamo, i film di finzione. In questo caso abbiamo invece trovato un film che ci convinceva tantissimo e quindi l'abbiamo selezionato in concorso. Il film italiano si intitola Dancing with Maria ed è diretto da un regista goriziano che si chiama Ivan Gergolet. Ecco, tra l'altro goriziano, e mi fa venire in mente chissà perché subito Zoran, comunque sia, evidentemente in quel nord-est qualcosa di interessante si sta muovendo. Sì, ma si muove anche a livello produttivo, perché non a caso Dancing with Maria è prodotto da quello stesso Igor Princic che aveva prodotto Zoran, quindi è stato bello ritrovarlo anche quest'anno con una nuova proposta. Guarda, è un film davvero sorprendente, è davvero appassionante, è la storia di una persona straordinaria che si chiama Maria Fuchs ed è una donna di più di 90 anni, una danzatrice di più di 90 anni argentina che da tantissimo tempo ha una scuola di danzaterapia. È una pratica che lei fa per aiutare e per far ballare persone che hanno dei problemi motori o problemi mentali o semplicemente persone che hanno voglia di condividere con lei questa esperienza che ha qualcosa di magico, di poetico, di mistico, e il regista riesce a riprodurre questa esperienza passando dei giorni con lei e sentendola parlare, vedendola agire con i suoi allievi, e noi siamo con il regista completamente immersi in questa esperienza. Senti Francesco, il film d'apertura fuori concorso è Melbourne, è un film iraniano, quello di chiusura invece è l'esordio alla regia di Diego Bianchi, Al secolo Zoro, con Arancia e Martello. Ci spieghi un po' le due scelte, perché i due film d'apertura e chiusura, come dire, hanno sempre un qualcosa di anche di popolarità, di ricerca di un grande pubblico chiaramente diverso, no? Esattamente, Melbourne era un film che ci piaceva così tanto che non volevamo perderlo, poiché non avevamo potuto inserirlo in concorso o non avevamo voluto. Noi di solito privilegiamo, chissà poi perché, le prime mondiali per il concorso. Questo film aveva avuto una piccola uscita a un festival iraniano, quindi figurava come prima internazionale e aveva però in sé delle caratteristiche che ce lo facevano diciamo immaginare benissimo come film d'apertura, quindi il motivo è questo. È un film iraniano, diciamo un po' scuola Faraday, se vogliamo dirla così, con l'attore di Una separazione di Faraday. È un film drammatico, molto teso, che somiglia a un thriller, insomma la storia di una coppia che deve partire per Melbourne, che non riesce a farlo, forse, chissà, c'è del mistero, insomma. E questo è stato il motivo perché abbiamo scelto questo film come apertura. Come chiusura invece abbiamo scelto una commedia italiana, e in questo caso la volontà era di fare un evento di chiusura che si prestasse a questo tipo di collocazione, e pensiamo che Arancio e Martello si presti alla magnificenza, diciamo, per questo evento. È un film molto divertente, è un film in costume, come dice Diego, ma è ambientato semplicemente nel 2011, racconta un caso forse vero, forse no, è una specie di Fa la cosa giusta di Spike Lee rapportata invece a un quartiere di San Giovanni, Roma, insomma. Insomma, tanta curiosità anche per questo. Ti chiedo un'ultima cosa sul concorso, chiaramente impossibile citare e commentare tutti i film che sono lì da vedere a Venezia, quindi, come dire, non si può fare altro che quello, però voglio una battuta lapidaria da te su questo film prodotto dai fratelli Dardenne con Valeria Bruni Tedeschi, perché questo è un film, come dire, che sicuramente ha un appeal internazionale di grande livello. Certo, assolutamente, è un film molto solido, nonostante si tratti di un film di un esordiente. Sì, è prodotto dai Dardenne ed è interpretato, oltre che da Valeria Bruni Tedeschi, anche da Olivier Gourmet, altro attore chiaramente feticcio dei Dardenne. È un film che parla di genitori, di rapporto padre-figlio, ma anche di crisi economica. È un film che si lascerà vedere, che può avere anche davvero un pubblico, insomma, un pubblico per la sala. E chissà, che non lo rivedremo. Ricordo il titolo Terra Battuta, insomma, il titolo del film francese. Francesco, grazie, in bocca al lupo per la settimana della critica e appuntamento a Venezia. Grazie a te, grazie a voi tutti. Arrivederci. La Rosa Purpurea. E siamo ancora insieme alla Rosa Purpurea, ancora per parlare di cinema, questa volta con il profilo, l'intervista con un regista molto particolare ma molto originale del cinema italiano. Stiamo parlando di Edoardo Winsper, salentino, regista che si è fatto apprezzare ormai da quasi 20 anni nel circuito cinematografico italiano, nelle sale, con film che hanno un grosso radicamento con il suo territorio, con il suo Salento. Ricorderete Pizzicata, Sangue Vivo, poi Galantuomini, e di recente ancora In Grazia di Dio, con il quale è tornato a girare con una produzione molto leggera, ma con un film che ha avuto davvero tanti riconoscimenti quest'anno. È stato uno dei film con più premi nel corso della stagione 2013-2014. Abbiamo incontrato Edoardo Winsper nelle giornate cinematografiche del Festival delle Resistenze di Merano nello scorso mese di aprile, e lì è nata un'intervista che ci racconta anche un po' il modo di lavorare di un regista molto più internazionale, tanto quanto riesce a essere locale. Edoardo Winsper. Stanno fatto? C'è stato? L'occhio coglione di tutti. Mannaggia a me la capo! Bene, aiuta, ti porto all'ospedale. Ah, sesta, non è niente. Non è niente, mannaggia, bene, aiutami. Ma facci una cosa buona. Fammi te sentire una piada suonare. Ma sta fessonisci? Che cazzo che dici? Fanne, cazzo, una piada virucata di cuglio. Quando nasce in te la scintilla del cinema? Ma ho deciso di fare regista un po' più in là. All'inizio ero appassionato di cinema. Ma direi da quando ero bambino, andavo sempre al cinema nelle varie sale che c'erano intorno al mio paese di Bressa. All'epoca ogni paese aveva anche due sale, Corsano aveva due sale cinematografiche, Alessano, Tricase ne aveva due, Morciano, tutti i paesi del Basso Salento, e avevano una distribuzione molto variegata, perché adesso c'è, non so, Capitan America in metà dei cinema, invece prima c'era Godzilla, i Peplum dell'antica Roma, Pasolini e i film western, per esempio. Quindi mi vedevo tutto ed ero affascinato, appunto. Vedevo sempre film quando andavo in qualche capitale, mia madre è straniera, non so, a Vienna, o mio padre a Roma, andavo sempre al cinema. E pian piano ho iniziato a fare anche dei miei piccoli reportage, documentari, raccontando la storia degli immigranti, delle persone che facevano i pescatori, contadini, contrabbandieri, chiunque, borghesi, aristocratici. E da lì è iniziato prima il desiderio di documentare e fare il piccolo documentario, e poi ho iniziato a studiare lettere, ma subito mi sono iscritto a una scuola di cinema, che era una scuola statale. Sono entrato in una scuola di cinema di Monaco, di Baviera, come documentario, e poi ho fatto le mie prime esperienze con cinema di finzione, e da lì è partita quella malattia di cinema di finzione. La scuola di cinema di Monaco ti ha permesso, al grande l'esperienza insomma in Germania, ma anche di avvicinarti ad alcuni maestri del cinema tedesco dell'epoca. Penso a Edgar Wright, cioè all'idea di un cinema del loro manifesto di Oberhausen, no? Quindi della Nouvelle Vague tedesca. Quanto ha contato, quanto è stata formativa, come ricordi quell'epoca lì in termini di contatto con quel tipo di cinema? Allora, intanto io ho fatto una scuola statale che ti dava una borsa di studio, addirittura ti permetteva di fare i propri film, ti pagava praticamente e finanziava i propri film, e queste sono poche, sono specialmente forse solo in Germania o in Francia. E, no, è stato importante Monaco prima di tutto perché ti dava la possibilità economica di realizzare film, perché il cinema è anche economia, e poi effettivamente stare a contatto con Wim Wenders, era il presidente, poi incontravamo spesso il montatore di Wenders, Reitz, il livello era alto, perché sceneggiatura per esempio è venuta per fare un seminario Suso Cecchi d'Amico, io ero anzi il traduttore, poi mi hanno cambiato perché lei mi disse: ma sei sicuro che hai capito tutto, che stai traducendo bene? Perché dalle facce loro erano... perché un conto è sapere il tedesco e l'italiano, un conto è saper tradurre. No, è stato importante, era sicuramente un ambiente molto stimolante, il fatto di stare a stretto contatto con personaggi così importanti del cinema, maestri del cinema, ti ha fatto crescere, mi ha fatto crescere moltissimo. Ecco, quindi finisce l'esperienza, diciamo, della scuola di Monaco, tu cominci con a produrre qualche tuo documentario, qualche tuo film, sempre indipendente ovviamente, e arriva il primo successo, almeno il film che ti dà la notorietà nell'ambito anche del circuito festivaliero nazionale, ovvero Pizzicata. E dentro quel film forse ci sono i due elementi che rimarranno sempre nel tuo cinema: quello di un attaccamento al racconto delle radici della tua terra, e anche quello però di uno sguardo molto asciutto, che è proprio tipico di chi viene da una scuola di documentari. Io mi nutro di documentari, perché il documentario per me è una palestra di verità, di autenticità, di realtà, e trovo che la realtà può essere molto più appassionante della fantasia. Quindi io faccio sempre dei documentari fra un film all'altro, e che mi servono come memento mori, quasi, ricordati che morirai, ricordati di fare le cose in maniera autentica, verosimile, credibile, sincera. Però poi sono anche un regista di finzione, quindi sono un manipolatore della realtà, e la plasmo a fini narrativi. La terra per me, la mia terra, la Puglia, il Salento, è una specie di metafora del mondo, è un microcosmo che io racconto, perché non è nemmeno il Salento, è il Basso Salento, è il Capo di Leuca, è un'area circoscritta in un raggio di 10 chilometri, quindi ovviamente una metafora per il resto del mondo. Lo faccio anche per motivi pratici, perché è più semplice, esco fuori di casa, vedo le persone, le conosco, conosco la forma, conosco la lingua, e quindi per me è più facile mettere in scena, cioè, se vuoi un esercizio di umiltà. E poi però è anche, cioè io potrei, ogni tanto, specialmente con critici locali, intellettuali del pugliesi, intellettuali della Magna Grecia, che vivono a Lecce, Brindisi, Taranto, ogni tanto mi difendo, dico: guardate che io posso fare 100 film e raccontare sempre storie diverse, tanto l'amore, l'odio, il desiderio di ottenere il potere, la gelosia, l'invidia, sono universali, sono uguali dappertutto, è come li esprimi che sono diversi. E poi c'è anche un aspetto razionale, che semplicemente io amo molto la mia terra, quindi racconto le storie lì. Forse in futuro farò film da qualche altra parte. Prima o poi capiterà. Sì. Dicevi invece che stai lavorando a un film fuori dal tuo territorio. Ti vengono i brividi un po'? raccontaci un po' di questo. No, è una storia che mi è stata commissionata. È un film tratto dal romanzo di Francesca Melandri, Eva dorme. Ed è una storia ambientata nell'Alto Adige, Sud Tirol. Ed è la storia dell'Alto Adige attraverso le vicende di una donna che percorre tutta la storia, attraverso la storia dell'Alto Adige, soprattutto gli anni 50 e 60, che erano anni di grandi conflitti fra italiani e tirolesi di lingua tedesca. Penso che l'abbiano chiesto a me perché forse non gli dispiaceva il mio cinema, però abbia contato moltissimo, penso che abbia contato moltissimo il fatto che io sia italiano e mitteleuropeo da parte di madre, perché mia madre è austro-ungherese, è cresciuta in Ungheria, però di lingua tedesca, quindi quello ha contato, conosco le due parti. Certo, pensavo fino in costume in un certo senso. No, sicuramente in costume. Cioè è ambientato in quell'epoca lì. 50-60, certo, sì. Beh, bel film produttivamente... Va, sarà un film come minimo da 3-4 milioni di euro, ma come minimo. Pensi di girare quando più o meno? Penso l'anno prossimo. L'anno prossimo. C'è nella tua formazione un regista, uno, due registi di riferimento, cioè che quando dici... Un giorno vorrei che Edoardo Whisper venisse ricordato con il italiano salentino, il... Ma, no, ci sono vari registi. Adesso, sai, io amo veramente tanto il cinema come la letteratura, quindi non riesco a limitarmi a un solo autore, anche perché dipende dai momenti, no? Dagli stati d'animo. Allora, se dovessi parlare di documentario, per me è Vittorio De Seta. È il più grande, e anche però per quanto riguarda il lavoro che ha fatto con i pastori della Sardegna, Banditi Orgosolo e anche Diario di un Maestro. Per quanto riguarda la direzione degli attori, io penso che Altman e Cassavetes, nessuno di loro li ha diretti in maniera più precisa, puntuale, giusta, autentica. Altman, quando vede, non so, Radio America o Nashville, penso che, ma anche quei film che sapete, sono delle sinfonie di attori. Edoardo Whisper alla Rosa Purpurea, un regista che continueremo a seguire qui nella nostra trasmissione. Adesso giochiamo insieme perché c'è da sentire la seconda traccia del film misterioso di oggi. Ma che ne sarà di noi? Anche noi potremo ricominciare, credo. Un mondo nuovo e migliore. Prima però dobbiamo costruire. La Rosa Purpurea, @radio24.it, vostro nome, cognome, indirizzo, il titolo del film se lo avete indovinato. Provate a vincere una delle due copie in Blu-ray di questo film che sveleremo la prossima settimana. La Rosa Purpurea. Eccoci ancora insieme alla Rosa Purpurea. Per concludere la nostra puntata andiamo a dare un'occhiata a qualche suggerimento per il cinema da vedere in casa. Un suggerimento, il primo suggerimento è quello del nostro game della scorsa settimana, per risolverlo e per recensirlo. Sentiamo. Se risveglierai quella bestia, distruggerà tutti noi. Potete dare ascolto a questo oppositore, ma io vi prometto una cosa. Se riusciremo, tutti condivideranno le ricchezze della montagna. Si trattava di Lo Hobbit, la desolazione di Smaug, secondo dei tre capitoli della saga post Signore degli Anelli, prodotta e diretta da Peter Jackson. Ne parliamo con Fin TV e con l'amico Giulio San Giorgio. Ciao Giulio. Ciao Franco, un saluto ai radioascoltatori. Sì, secondo capitolo della saga tolkieniana presentata da Warner in diverse versioni, e qui vi presentiamo quella Amarei, ovvero Blu-ray 2D più Blu-ray 3D e copia digitale. Nella confezione sono presenti due cedolini, uno è la pubblicità del videogame Lego Lo Hobbit, che regala un codice per usare Sauron come personaggio giocabile nel videogame, mentre l'altro permette di scaricare la copia digitale del lungometraggio. Passare all'analisi tecnica dei dischi è veramente un di più, perché si tratta di parlare, al netto dei gusti, dei pro e dei contro che può suscitare il film, di una delle vette tecnologiche del cinema di oggi, perfettamente riversata per l'home video. Semplicemente questo è il miglior Blu-ray dell'anno insieme a Gravity. Tra gli extra, visita sul set con Peter Jackson, un ingresso nella sala di montaggio, una buffata di trailer, l'unico neo un po' assurdo in cotanta magnificenza ad alta definizione, che non si possono deselezionare i sottotitoli inglesi se si vogliono quelli italiani. E questo chiaramente, come dire, cioè, quando si rasenta la perfezione poi bisogna essere perfetti, non c'è niente da fare. Comunque questo era l'Hobbit, la desolazione di Smaug, il nostro game della scorsa settimana. A questo punto invece una occhiata ai palinsesti TV e alle proposte che arrivano da questa estate. Oggi ci concentriamo sugli anni 70. Sì, questa settimana abbiamo scelto due film degli anni 70. Cominciamo dal 1974, hanno di prima pagina, terza versione per il grande schermo dell'omonima commedia teatrale di Ben Hecht e Charles MacArthur, che trova in Billy Wilder un direttore che orchestra cinismo e divertimento con brio, schiaffeggiando con la solita eleganza i ben pensanti e spalancando una finestra sulla stupidità umana, mentre racconta di giornalismo, media e morale comune. Il film è su Rai Movie domenica alle 8:50 del mattino. La seconda segnalazione è del 1971 ed è Morte a Venezia. Iris, mercoledì alle 23:10, uno dei capolavori di Luchino Visconti, spettatore del decadimento di una colta aristocrazia mitteleuropea alla quale appartiene, e di un'idea di arte dominata dal culto del bello. Adattamento da Thomas Mann, il cui protagonista è ripensato da Visconti come se fosse una sorta di Mahler malinconico, è soprattutto un film sul tempo, un tempo perduto, ed è sicuramente uno dei film più prustiani del nostro cinema. Questi allora gli anni 70 nei palinsesti televisivi della prossima settimana con gli amici di Film TV. Grazie Giulio, ci sentiamo fra 7 giorni. Ciao Franco, alla prossima. E allora, questo per quanto concerne il cinema da vedere in casa. Come stiamo facendo ormai abitualmente in questa estate 2014, quella rosa purpurea, andiamo a dare un'occhiata invece a quello che sarà il cinema italiano, che vedremo sugli schermi dal tardo settembre, diciamo da dopo Venezia, fino ai principi del 2015. Tanto per farci un'idea, con i protagonisti però del cinema. Per esempio, oggi ci occupiamo di un debutto dietro la macchina da presa, quello di Maccio Capatonda, personaggio che, come dire, ha già un suo pubblico molto, molto consolidato, tanto alla televisione quanto sul web, e che per, come dicevamo, esordisce alla regia, tra l'altro dilatando, se vogliamo, ma non è solo quello ovviamente, quella che è la sua caratteristica. Sapete che Maccio Capatonda si è reso famoso per i trailer, cioè fa dei trailer verosimili di situazioni che sono molto da commedia sull'Italia contemporanea, e uno di questi trailer, appunto Italiano Medio, è diventato il suo film d'esordio. E allora abbiamo intervistato Maccio Capatonda per parlare di Italiano Medio. L'approdo al cinema di un personaggio che si è reso famoso sul web, ce ne sono stati diversi in questi anni, è sempre accolto, se vuoi, un pochino da stiamo a vedere che cosa farà, stiamo a vedere come trasformerà quello che ha fatto fino adesso in qualcosa che sia cinema. Come hai lavorato tu a questo aspetto, diciamo? Innanzitutto ci sto ancora lavorando perché sono alla prima stesura della sceneggiatura. Poi in realtà io parto dalla televisione con la Jalappas, poi i miei video sono diventati virali e sono andati sul web, e adesso sto facendo una serie su MTV, quindi sono passato di nuovo alla televisione. E nella quale appunto ho fatto una serie televisiva da 18 puntate da 22 minuti, quindi diciamo che da quando ho iniziato, dal video comico, dallo sketch di un minuto e mezzo, ad ora che ho fatto una serie da 22 minuti, diciamo un po' di acqua sotto i pontini è passata. Soltanto che il cinema comunque rappresenta per me uno scoglio difficile e impegnativo, e tra l'altro il mio sogno da quando ho più o meno 7 anni, fare un film. Quindi per me è difficile, ci sto pensando ancora, sto cercando di trasportare perché la mia comicità si fonda spesso sul montaggio, e sul montaggio veloce, e sul montaggio ritmato. E nel film sto cercando di creare diversi momenti di questo tipo, e poi però sempre mantenendo una coerenza e una storia e una trama che comunque ha tutti i, tecnicamente, cioè ha tutti i punti cardini di una sceneggiatura vera e propria, quindi non sarà un film a sketch. E quindi ho cercato di fare una storia che un po' mi rappresenta, perché la storia di il titolo Italiano Medio comunque viene preso da un trailer che ho fatto nel 2011, e proprio quel trailer da un minuto e mezzo lo sto cercando di ampliare a farlo diventare da 90 minuti. In un certo senso è anche facile da un certo punto di vista, perché il soggetto già ce l'avevo nel trailer, e quindi abbiamo avuto questa fortuna. Ora però fare il film, appunto, come dicevo, sarà una grande prova. Significherà dover tenere bene il bilancino sui pesi e sulle misure. Però l'elemento del trailer forte, io lo trovo geniale, è che il tuo personaggio, super impegnato, super attento alle cose della vita, della politica, degli esteri e tutto, improvvisamente prende una pillola che anziché come farebbe in un qualsiasi film americano potenziare le sue capacità cognitive, in questo caso le riduce ai minimi termini. E trovo che questa cosa sia da una parte molto divertente, dall'altra anche un po' preoccupante, perché se questo è l'italiano medio che tu immagini, effettivamente sì, è un po' pessimista, diciamo, come idea. Però considera che quello che si vede nel trailer fa parte del secondo atto del film, e il secondo atto, diciamo, non è la fine. E la fine del film sarà appunto probabilmente una via di mezzo, diciamo, tra proprio una mediazione tra questi due aspetti, perché fondamentalmente il primo ragiona molto con la testa e il secondo ragiona molto con la pancia o col cuore, quindi si lascia trasportare dalla mondanità. E il vero italiano medio in realtà è una via di mezzo tra tutte queste cose. Adesso non lo so neanch'io. Io sto cercando di fare di raccontare quello che è per me la realtà di oggi, di una persona che è nata negli anni 70, che fa parte di una generazione che è cresciuta con la TV. Io sono nato a pane e televisione e ho assunto, diciamo, ho immagazzinato tanti contenuti, tanti linguaggi televisivi, mediatici, che magari per le persone nate prima non era così, e questi linguaggi li sto risputando via via a mio modo, quindi non faccio altro che dissacrare un po' i linguaggi. Questo concetto finora nei video brevi ha funzionato, adesso al cinema sto cercando di scavare un po' di più e di raccontare un po' anche la mia storia, quindi non è più solo prendiamo in giro i linguaggi, ma prendiamo in giro anche me stesso, fondamentalmente. Volevo chiederti un'altra cosa. Tu prima dicevi da quando sono bambino che sogno il cinema, quindi avrai sicuramente come un tipo di cinema, registi, attori che insomma hanno foraggiato il tuo immaginario. Quali sono? Guarda, innanzitutto devo dirti che quando ho scritto il film, ho iniziato a scrivere il film, durante proprio la scrittura della sceneggiatura, in ogni scena più o meno c'era un rimando a un altro film, cioè per qualche motivo riuscivamo a trovare dei collegamenti con un film, quindi è strano come molti film siano uguali a se stessi, cioè sono uguali tra di loro, perché alla fine la struttura della sceneggiatura è spesso la stessa. Io ho dei miti assoluti, il primo fra tutti è Robert Zemeckis, perché diciamo quello che ha fatto scattare la mia passione per il cinema è stato Ritorno al Futuro 1, e da lì è nata la mia passione. Poi ho anche altri miti molto importanti come Stanley Kubrick, come Milos Forman, come nel comico sembra strano, non ho nominato nomi comici, ma non ho fatto nomi comici, ma nel comico c'è innanzitutto Verdone, primo fra tutti, perché sono nato, diciamo, con i suoi film, poi Troisi e poi Francesco Nuti. Questi sono i tre autori attori che mi hanno accompagnato la mia infanzia a livello comico, meno a livello americano, tipo Woody Allen l'ho scoperto tardi, anche i Monty Python li ho scoperti molto tardi, il demenziale anche mi piaceva all'americana. Ecco, diciamo che il mio film vuole essere anche un po' un tentativo di trasportare un po' di demenziale fatto bene e anche preso su molto, che si prende molto sul serio in Italia, e non per questo rinunciare a dei momenti forti e crudi, drammatici, come anche Cipri e Maresco mi hanno insegnato, diciamo. E allora, con l'intervista a Maccio Capatonda, italiano medio nelle sale il prossimo autunno, noi chiudiamo la nostra trasmissione, la nostra puntata. Appuntamento alla settimana prossima, come sempre alle 15.30 il sabato, alle 15 in replica la domenica, per parlare di cinema. Saranno tanti film che arriveranno nuovi nelle sale italiane tra le uscite del 21 agosto e soprattutto quelle del 27-28, ma soprattutto ci tufferemo nella immediata vigilia della Mostra del Cinema di Venezia con il direttore Alberto Barbera, e continueremo anche il nostro viaggio nel cinema che verrà italiano con altri importanti protagonisti del nostro cinema. In questo caso sarà Silvio Muccino. E allora, appuntamento fra 7 giorni. Un saluto da Franco D'Assisti.